Intervista numero uno del progetto WWF, Alessandro Boninsegna. Bene, siamo qui al Museo del Bel Riguardo con Alessandro Boninsegna, che è il direttore della didattica e della gestione del Museo del Bel Riguardo di Ferrara, la persona che ha anche molto contribuito alla realizzazione di questo progetto, quindi questo è anche un ringraziamento per il supporto al suo progetto. E partiamo con alcune riflessioni sul progetto. Io avevo proposto Voghiera ieri, oggi e domani, quindi tu come sei arrivato a Voghiera? Che cosa ti ha portato qui? Una fanciulla. Avevo una fidanzatina ferrarese che bazzicava più o meno la provincia di Ferrara. Siamo andati una mattina al mare, tornando indietro, siamo passati davanti a Bel Riguardo. Cos'è, cosa non è, nessuno lo sapeva, siamo entrati. C'era un museo chiuso, la cosa mi ha molto incuriosito perché io adoro i musei, mi sono informato sulle aree di apertura e così via, finalmente siamo tornati con un museo aperto e mi sono fermato, lei no. Mi è andato a vivere a Bologna, sono andato a vivere a Voghiera. Più o meno, insomma, ho riassunto molto, ma più o meno la storia è questa. Questo poi è il motivo che ti ha attirato qui la prima volta. Il museo. Invece che cosa ti ha convinto a rimanere, anche solo per motivi di lavoro? Perché il museo poverino era aperto a domenica con dei volontari. All'epoca lavoravo per un'altra società di provincia di Bologna e mi era appunto vaghetto di proporre a questa società di contattare il Comune di Voghiera e proporre di aprire il museo in maniera un po' più professionale. L'hanno fatto e abbiamo cominciato a lavorare qua nel Museo Civico del Bel Riguardo. Poi dopo, per vari motivi, insomma, è nata un'altra società, la mia, che è subentrata in gestione al museo in questione, quindi dopo sono rimasto, anziché prendere tanti collaboratori, la società era piccolina, quindi facevo quello che poteva, anziché prendere collaboratori mi sono fermato io a lavorare nel museo e dopo 20 e tot anni sono ancora qua. C'è una cosa che ti ha colpito oltre un po' allo stato generale del museo, di fatiscenza, forse un termine un po' forte, però più che altro di una perla culturale del territorio ferrarese un po' abbandonata a se stessa, se ho capito bene? Allora, il problema di Bel Riguardo non è tanto che sia abbandonato, è che in un comune molto piccolo, che ha ovviamente fondi molto limitati per la cultura, e quindi quando c'è qualche fondo si fa qualche cosa, ma è ogni tanto, non è una cosa continuativa nel tempo. Quindi tante cose sono state fatte, perché quando il comune di Voghiera ha preso in mano questo palazzo era veramente patiscente, dove oggi c'è la sala archeologica, pioveva dentro, per dire, tante cose sono rimaste da fare. Il problema è proprio questo, che adesso ci sarebbe quel passo in più da fare che potrebbe portare il palazzo, non a splendore di una volta, perché ovviamente è impossibile, però a farlo diventare un'attrazione, adesso siamo una grande città, non dico di prima categoria, però molto interessante. Se non si fa questo passo, rimanere un piccolo museo, invece se si potesse arrivare a ridefinire due cortili, adesso non dico sfrattare tutti, ma quantomeno rendere più gradevoli, soprattutto il secondo, anche più usufruibili, perché quando piove qua è tutta una pattanga, curare un po' di più il verde, tenere molto la pulizia che è fondamentale quando non ci tiene abbastanza, quindi quando entra uno dentro il cortile trovare viali puliti, l'erba tagliata, gli alberi curati, insomma far entrare in un bel posto, secondo me sarebbe quel passettino in più che, ripeto, non potrebbe far diventare Bel Riguardo la reggia di Caserta o qualcosa del genere, però insomma farebbe parlare di sé, potrebbe portare forse un pochino più di turismo. Ok, direi che abbiamo sostanzialmente affrontato il Voghiera di oggi, e invece il Voghiera di domani, il Voghiera che vorremmo avere per il 2035? Cioè, sicuramente si la tratta cosa di migliore sarebbe che io, non so se sono i vogheresi, i voghentini, insomma gli abitanti di Voghiera potessero capire l'importanza di quello che hanno sotto il naso, che sia Bel Riguardo, la necropoli, il museo del Mondo, tutti i gioiellini che ci sono in questo territorio, che per essere un paese piccolo sono tanti gioiellini, ne capissero l'importanza e incominciassero a sfruttarli, a frequentarli, a passare la parola, a essere un pochino ambasciatori del loro territorio. Cosa per me sarebbe veramente la vittoria su tutti i fronti. Quindi anche lasciargli con un po' di senso di orgoglio, di volerlo anche solo condividere. Dire, questo è un posto bello dove sono nato, dove sono vissuto io e voglio condividerlo con te. Soprattutto senso di orgoglio. Una cosa che mi ha colpito moltissimo qualche anno fa, sono un po' di anni che lavoro qui dentro, è venuta una ragazzina giovane, avrò avuto 18-20 anni, non di più, col fidanzatino, e è venuta qui perché si ricordava una volta che era venuta con la scuola elementare a vedere il museo e ha detto: mi ha colpito così tanto che quando volevo far vedere al mio fidanzato Beriguardo. Per me questa è stata una vittoria a 360 gradi, lì ho capito che la strada era giusta. Però vorrei che non fosse solo la singola ragazzina, tutti gli abitanti fossero fieri di quello che hanno sotto il territorio. Perché lei era di Voghera? Era di Voghera. Ok. Vediamo se ci riusciremo. Il tuo progetto, secondo me, rientra in questo filone qua. Rendere consapevoli gli abitanti di Voghera che hanno, capito la parolaccia, sotto al naso un tesoro non indifferente. Usatelo, sfruttatelo e fatelo conoscere. Quindi anche c'è un filino di senso di... Mi sento coinvolto, io vedo che tu hai un tesoro sotto il naso, come stavi dicendo, e non lo usi, non ne fai niente, lo lasci... Peggio, sotto il materasso. È indifferente, questa è la cosa peggiore. Come dicono nei film Rosa, o amare o odiare, sono due sentimenti più potenti, l'indifferenza è la cosa peggiore. Qua sono indifferenti. Se venisse giù Beriguardo, ma cosa un palazzo che se ne frega. Cioè, è una cosa tristissima questa. Tra l'altro, conoscendo, capisco che il Beriguardo di oggi non sia quello degli stensi, però è sempre una cosa importante. Dal punto di vista della storia è un palazzo assolutamente, una costruzione assolutamente fondamentale. Non lo sanno. Non lo sanno, non ne importa niente probabilmente. Quindi preferisci uno scenario dove i voghentini adirati vengono con le forche e le torce per bruciare il Beriguardo piuttosto che lasciarlo sbriciolare? Ma il vaffanculo è una differenza totale. Okay. Il silenzio è una tomba, il vaffanculo se ne può parlare. Perché qualcosa anche ridendo, di negativo, eh? Qualcosa di negativo è pur sempre qualcosa. Esatto, vuol dire che qualcosa l'hai fatto, hai colpito la fantasia di quell'altro. Quando quell'altro proprio è amorfo, vuol dire che gli sei attualmente indifferente, che tu sia vivo o morto non importa niente. E questo è tristissimo, soprattutto per una struttura come Beriguardo, che ripeto, dal punto di vista anche archeologico, artistico, ma anche della storia, dell'architettura, è forse uno dei palazzi più importanti della regione Emilia-Romagna. Vorrei dire più importante, ma mi dicono, ma beh, ti pagano per forza, lo dici. Però di fatto è così. Allora, per avvicinarsi poi ai prossimi punti dell'intervista, negli anni 90, quando sei arrivato qui a gestire il museo, sostanzialmente l'idea di lo affidavamo a dei volontari che lo aprivano, quanto lo aprivano? Un giorno alla settimana? O domenica, pomeriggio. Tipo i volontari del FAI? Sì, questo era un gruppo di volontari locali, però sì, più o meno l'idea era quella. Voghera, Cultura, Ambiente, mi sembra. Sì, volontari, essenzialmente tre. Erano Enrico Benetti, che si occupava soprattutto della parte rinascimentale, Ottonio Bacilieri, ispettore onorario della soprintendenza e assessore della cultura, si occupava della parte archeologica, e poi qualche un altro che ogni tanto veniva a dare una mano. Allora, quello che ho imparato io l'ho imparato da loro, quindi tanto di cappello. Ovviamente, apprendo soltanto la domenica pomeriggio, è una cosa un pochino limitata. Anche per il pubblico, sembra strano, ma qualche turista che passa il giovedì, spesso volentieri, succede anche questo miracolo. E soprattutto non erano ancora coinvolte le scuole. Le scuole abbiamo cominciato a coinvolgerle noi, perché un anno è venuto il liceo classico di Ferrara, dovevano andare a fare un'esperienza di scavo archeologico con i gruppi archeologici d'Italia giù in Toscana, e ci hanno chiesto se potevamo organizzare un scavo archeologico posticcio, didattico, per fare impraticare i ragazzi, per vedere cos'è una cazzuola, come si adopera, come si riconosce uno strato e così via. Dopo che gli abbiamo organizzato, proposto e fatto, mi è venuta l'idea di perché invece di smetterlo adesso non lo manteniamo e lo facciamo fare a tutte le scuole che ne facciano richiesta, elementari, medie e così via. Sì. Abbiamo fatto così e devo dire che siamo stati uno dei primi musei della provincia di Ferrara, non voglio dirli primo, a organizzare laboratori didattici dedicati alle scuole, e lo facciamo ancora oggi. Ovviamente una volta c'era più frequenza, perché molto banalmente i contatti, i trasporti costavano di meno. Oggi vengono soprattutto quelli di Voghera e qualcuno da comuni qua a Torro, perché i trasporti, il pullman e il contatto sono abbastanza cari, però i laboratori didattici ci sono ancora, li offriamo ancora, e devo dire che sono quelli che vengono, sono contenti solitamente. Però già negli anni 90 c'era questo mare blu, questa opportunità da sfruttare di un laboratorio che non fosse semplicemente il portiamo i bambini al museo, gli facciamo fare la visita guidata e se possibile quegli sperimentini un po' così, anche solo provare, poi soprattutto a livello di un liceo, a fare dell'archeologia con tutte le limitazioni del tempo, è un modo diverso per parlare, per affrontare la storia. In modo diverso, poi attenzione alle limitazioni, perché all'epoca scavavo ancora, gli ho fatto scavare uno strato con reperti romani e i reperti erano autentici, perché erano reperti che buttavano via dal cantiere dove ero io, quindi. Abbiamo fatto un piccolo taglio perché abbiamo avuto una visita al museo, sicuramente di una persona molto particolare. La prima visitatrice nepalese Nepalese. mai venuta qua a bere guardo, quasi un miracolo. Da una parte mi chiedo anche che cosa spinge poi una persona a venire qui. Ti ha raccontato un po' della sua storia? No, assolutamente casuale. Nel Ok. senso che ha conosciuto questa ragazza di Voghera e è stata lei che l'ha portata qua. Prima l'ha fatto vedere Ferrara, poi l'ha portata qua perché è di Voghera, quindi ci doveva far conoscere. Lei, intelligente, interessava far conoscere il territorio questa ragazza studentessa. Facevano tutti così, sarebbe a cavallo, ma purtroppo è un caso più unico che raro, mettiamolo così. Anche perché poi lei ha relazioni con l'estero, quindi forse è un pochino più sveglia dei suoi conterranei. Vabbè. Però dici che questo tipo di relazioni sono inevitabilmente molto importanti per un museo per farsi Sono promozione. fondamentali. Se un comune non ha soldi per farsi pubblicità, il passaparola è assolutamente il modo più economico, ma anche più potente per farsi conoscere. E quindi tutto quello che viene fatto qua dentro il museo dovrebbe essere di livello eccezionale, per cui la gente dice sì, mi sono trovato bene, e quindi faccio un buon passaparola e di conseguenza una buona pubblicità, amici, parenti, conoscenti e così via, in modo da attirare altra gente qua a mi riguardo. È per questo che dico sempre, se curassero meglio sarebbe un modo in più per farsi conoscere, perché poi il passaparola, il ritorno sarebbe positivo. Se uno viene, gli piace il museo, però deve camminare in mezzo al fango, non so quanto può essere positivo il ritorno d'immagine. Vabbè, Allora, incrociamo le dita. sempre a proposito di immagine, la Voghera degli anni 90 e 2000, che immagine aveva di se stessa, come si presentava? Che differenza c'è rispetto ad adesso che è nel 2026? Allora, mentre nel fine anni 90 e inizio anche 2000 era un paesotto addormentato in mezzo ai campi, direi che adesso poco alla volta, molto lentamente, ma si sta svegliando. Forse anche perché, la butto lì, è soltanto un'ipotesi, mentre prima molti di quelli che lavoravano in comune erano del posto, adesso ci sono molti ferraresi, gente straniera, straniera, tra virgolette ovviamente, non del posto, ecco. Che probabilmente stanno un attimino svecchiando quello che era la vecchia mentalità del siamo tutti qui, parliamo tutti qui, non andiamo mai fuori da questo nostro territorio. Adesso qualche apertura incomincia ad esserci. Anche il sindaco, secondo me, ha avuto delle belle idee. Ci sono scambi di tecnici con gli altri comuni, insomma, sta aprendo anche lui il comune a collaborazioni con altri territori. Devo dire che in qualche modo comincio a sentirsi, cioè, siamo all'inizio, quindi c'è ancora un po' un attimo di calo dell'identità del territorio. Quindi c'è molta gente che magari non viene, che abita nel territorio di Voghera, ma non viene mai a Voghera perché orbitano non so, su Ferrara, su Bologna e così via. C'è un attimo appunto di questo calo dell'identità, però secondo me a lungo andare, come può succedere anche nelle grandi città, quelli che abitano qui, anche se non sono proprio del territorio, poi verranno a Ferrara al massimo, anche vengono da chissà dove, però pur non essendo qua di questa zona, poco alla volta incominciano a sentirsi parte del territorio e quindi incominciare a rinfocolarsi questo senso di appartenenza. Adesso è un momento di transizione e secondo me è una cosa molto positiva. Spero anche di passo in fretta che si ritorni a un senso del territorio, un senso di appartenenza molto più marcato, però insomma secondo me è positivo questa aprirsi verso l'esterno. È incominciato però in tempi molto recenti. Quindi dal sonno si sta lentamente rotolando nel letto, Voghiere. Sta passando la nebbia, sta per uscire il sole. Parentesi, uscite il sole per davvero. Chiudo parentesi. Ok, allora direi di ridersi verso la parte conclusiva. Quindi torniamo verso la terra dei sogni del latte Oh e mio Dio. miele e vorrei parlare proprio del museo che tu vorresti. Giustamente tu occupandoti direttamente di questo museo. Avrei anche qualche sogno, qualche desiderio di come lo vorresti vedere tra 10, anche 15 anni. Questa è la domanda più difficile in assoluto. Allora, Allora ti dimmi. chiedo, scusami, ti pongo due scenari. Uno, realistico, quindi con un interesse, un investimento da parte della comunità locale simile a quella che abbiamo adesso, e uno ideale, dove tutto va bene, i soldi ci sono sempre, c'è l'interesse, c'è la Vabbè, questa è volontà politica. Beh, fantascienza, però. io credo che valga comunque la pena farlo come esercizio, anche solo perché magari capita veramente che le cose Sai vanno tutte perché? per Perché adesso da 1 anno e mezzo, quasi 2 anni, abbiamo un direttore, onorario, ma pur sempre direttore, che può partecipare ai bandi. Quindi, in relazione ai bandi che usciranno, è probabile, altrimenti, che qualche soldino arrivi anche a Beriguardo. E di conseguenza, oddio, non faremo i sentieri delle stricate d'oro, però insomma è probabile che qualche voglino ce lo possiamo togliere. Partendo dalle cose più fondamentali, per salvare quello che abbiamo, salvare la sala della vigna e così via, insomma, partendo dall'ABC, però intanto da lì, quando hai uno zoccolo abbastanza resistente, puoi cominciare a costruire qualcosa di interessante sopra. Ci dovremmo arrivare. Da 1 anno e mezzo possiamo farlo. Che giustamente c'è la questione del anche solo preservare, come abbiamo detto, nella sala delle vigne ci sono tutti i problemi di umidità e di controllo della temperatura Ma che anche adesso non sono regolati. i reperti che abbiamo qua al museo sono stati restaurati negli anni 70-80, quelli più recenti 90. C'è alcune cosine che sono da ritoccare, le colle dell'epoca cominciano a sentire un po' il passare degli anni, quindi anche queste si vanno da riprendere. Sono dei bandi appositi, quindi anche in questo caso potremmo fare qualcosa di molto interessante, anche perché un museo, oltre a staccare il biglietto, vabbè, tutte queste cose qua, deve anche conservare quello che è dentro. Nel momento che un museo non conserva più, più un museo, è una casa d'aste, è una galleria d'arte moderna, non è più un museo. Se noi riusciamo in questo modo, tramite questi bandi e grazie alla presenza del direttore, a conservare, preservare e magari anche far studiare quello che c'è al museo, già cominciamo ad assolvere la gran parte di quelle che sarebbero le pertinenze del museo. Già abbiamo i progetti per le scuole, se riusciamo anche ad attivare una comunità intorno al museo, direi che abbiamo fatto un lotto, abbiamo vinto il lotto. È un 10 lode, è un bacio Ok, accademico. questo però siamo più a livello di tutela del bene culturale, Esatto. invece di valorizzazione. E ci vorrebbero veramente dei soldi. Perché qualsiasi cosa tu faccia, a parte, non so, l'articoletto sul social network, tutto il resto, radio, televisione, qualsiasi cosa che chiede soldi. Non sempre. Molto raramente ci sono bandi destinati proprio a questo tipo di organizzazione. Ci sono bandi per tante cose, addirittura alcuni bandi per pagare il personale, per la valorizzazione, per farsi pubblicità, volgarmente parlando, non ci sono quasi mai bandi. E purtroppo un piccolo comune di 3.800 abitanti, avendo pochi soldi, ne ha pochissime da destinare, direi quasi nessuno, da destinare, la tosse la tagliamo, da destinare alla valorizzazione, alla promozione. Faccio un esempio molto banale. Qualche anno fa, fare intervenire una televisione privata qua a Beriguardo, se non c'era stato, a Beriguardo, a Voghera, se non c'era stato un episodio di cronaca nera, proprio per dire facciamo un servizio su, erano 600-700 euro. Ovviamente fare un servizio non serve a niente. Abbiamo avuto anche la Rai qua, non è che abbiamo portato più gente. L'evento singolo serve a poco e niente. Se fai un ciclo di incontri, già incomincia ad diventare 2, 3, 4 mila euro, sono cifre che un piccolo comune non si può permettere, quindi già la valorizzazione incomincia ad essere un pochino deficitaria. Purtroppo non abbiamo altri enti a cui appoggiarci, perché la provincia non c'è più, voglio dire enti pubblici. La regione giustamente si occupa di tutte le regioni, del singolo museo, quindi in pratica il comune può fare riferimento soltanto a se stesso, ma se non ha soldi non può fare niente. L'unica pubblicità che ci possa permettere è i social network, qualche articolo sul giornale, se lo scriviamo noi, non lo vengono a scrivere loro, e poco più, quindi comincia a diventare abbastanza complicato farsi conoscere. Vediamo se riuscissimo, adesso il bolognese ogni tanto viene fuori, a trovare qualche escamotage per partecipare a qualche bando dove possa essere ripreso dentro anche farsi conoscere. Non diretto, non soldi diretti per farsi pubblicità, però un progetto più complesso in cui si possibile metterci dentro per la pubblicità. Ok, questo fuori dal museo e dentro il museo come parte della visita, cosa vedi? Visori VR, realtà aumentata? Posso essere a terra? Tre Assolutamente. o quattro persone che lavorano insieme a me, in modo per avere tanti compiti, ognuno si fa la sua parte, può essere anche la stessa parte, però fatta magari a rotazione. Insomma, gente, spererei giovani che vengono qua e portino avanti il discorso di Beriguardo. Perché se me ne vado io, chi ci viene? Atlantide? Grazie. se va bene, siamo rovinati. No, qui dentro sì, si possono fare tante cose. Puoi fare la realtà aumentata, la realtà virtuale, si può fare di tutto. Secondo me, però, in un museo piccolo come Beriguardo, il contatto umano è cosa fondamentale. Uno che ti spiega una cosa e se non hai capito o vuoi allargare, ti fa una domanda e tu rispondi. Questo per me è la cosa più importante che si può fare in un piccolo museo. Non siamo finiti, siamo un Beriguardo molto più piccolo. Tutto il resto ci può stare, ma il contatto umano per me è sempre la cosa più importante. E devo dire che la gente, insomma, va fuori contenta, quindi direi che sia abbastanza vero questo. Quindi lavorare proprio sulle visite guidate, gli eventi, i laboratori, Esatto. sia dentro il museo in sé, sia quelli fuori, come parlavi di quello di archeologia, degli scavi proposti Anche alla fuori scuola. avevamo proposto anni fa, abbiamo fatto per 2 anni, di fare i laboratori di Beriguardo, che era essenzialmente quello archeologico, presso alcuni, come chiamano, stabilimenti balneari della costa di Comacchio. Devo dire che male male non è andato, quei 5, 6, 7, 8, qualche 12 bambini c'erano. Purtroppo non andavamo gratis e tutti dicevano, vabbè, basta, è finito, questo è l'ultimo. Peccato perché in realtà è una bella promozione. Non è venuta gente da là per venire a Beriguardo, però intanto sapevo che c'era Beriguardo. È un passo in avanti, poi magari vuoi dire, bambino in autunno ricomincia la scuola, porti te a prendere il museo, ah che bello, andiamo a vedere tutti quanti con la classe, è un modo di promuovere anche quello a Beriguardo. Però anche questo, come qualsiasi progetto, se non è pluristagionale, serve pochino. Bisogna continuare il tempo, però insomma, se poi i bagni non ti chiamano più, perché poi alla fine quando c'è crisi tutti tendono a tirare i remi in A barca. tagliare le spese Esatto, ripercepite inutili. E a esatto. proposito di spese inutili, questo mi ha fatto pensare a, almeno nella mentalità italiana, di come la cultura sia una cosa a cui bisogna accedere al minimo costo possibile, andandoci gratis, mi ho in mente le domeniche del FAI o comunque le prime domeniche del mese in cui i musei sono aperti, e si punta, si cerca in ogni modo di frequentare il museo come una cosa gratuita. Magari non è l'intenzione quella di svalutare l'arte, ma di fatto, se non ci sono i soldi per poterla curare, per non poter curare il patrimonio culturale, si coltiva questa cultura di io ci devo accedere gratis e tu devi andare avanti, indipendentemente. E sono quasi d'accordo, perché la cultura, se diventa a pagamento, diventa per pochi. Però c'è un piccolo problema. La cultura non si mantiene da sola. Un museo ha dei costi, in questo periodo anche abbastanza importanti, perché tra luce e riscaldamento ci sono dei costi non Soprattutto il indifferenti. riscaldamento. Lascia perdere, ci facciamo del male. Quindi far pagare un biglietto può non coprire i costi, perché non copriranno mai. La cultura di sé è in perdita. Quindi c'è sempre bisogno di un aiuto politico, del comune, dello Stato, di quello che è. Però può contribuire a pagare, a togliersi qualche voglino, a pagare qualche bisognetto che c'è dentro il museo. Anche lì, che poi gli italiani fossero furbi. Ad esempio, per me è illuminato l'esempio del BDC Museum, che aveva i biglietti a pagamento e aveva un tot di pubblico, ha reso ingresso gratuito, però potenziando ristorante e bookshop guadagna 3-4 volte più di quello che guadagnava prima con i semplici biglietti. Devi usare un po' questi trucchetti qua, se vuoi fare dei soldi, la gente si diverta, ha una bella impressione e siamo tutti felici e contenti. È contento il visitatore, è contento il museo, tutti contenti. In Italia siamo ancora indietro in maniera pazzesca. Sono rarissimi i musei che abbiano ad esempio un ristorante dentro. In Europa c'è una guida ai ristoranti dentro i musei, in Italia raramente c'è un museo. E poi magari ti fanno il ristorante e lo chef è stellato, quindi devi fare un bonifico per andare a pagare, se no devi fare il mutuo sulla casa ma poi andare a pagare. È assolutamente inutile una cosa del genere, basta un ristorante normale. Ma siamo ancora indietro e quando facciamo qualcosa siamo anche provinciali. Siamo italiani, più di tanto non si può sperare. Quindi un buon compromesso anche per premiare musei che sono capaci di gestirsi Certo. sarebbe lo Stato, comunque il Ministero della Cultura, copre le spese di gestione, quelle di base come per appunto il riscaldamento, l'elettricità, un piccolo budget per coprire le spese dei dipendenti, e i musei in base alla loro performance ricevono, possono investire i soldi dei loro biglietti più eventualmente dei contributi legati alla performance per espandersi, per offrire delle alternative. Così un museo. Cioè, così abbiamo, diciamo così, il meglio dei due mondi, la cultura in sé viene tutelata, ma i musei capaci di vendersi sul mercato, vendersi è un termine un po' troppo forte, di avere una presenza comunque sul Esatto, mercato, vengono premiati. magari anche idee semplici per i musei, ma che siano fattibili, anche replicabili, magari anche altri musei possono prendere il punto, potrebbe già essere un'idea per premiarli perché hanno fatto una cosa intelligente. Piuttosto che questo immobilismo, il museo aperto su richiesta, il museo chiuso, cose di questo genere, o il museo sporco, tanto per parlare, un museo decente, dove ci sono delle proposte, adesso non dico il ristorante, magari anche un caffettino, cose del genere, però musei che ti attirano, ti fanno venire la voglia di andarci, personale preparato ma gradevole, ho sentito le visite guidate che mi sarei dato le martellate in testa io, personale che sappia affrontare la gente in maniera piacevole, secondo me sarebbe già un museo da premiare, anche se ha fatto le cose molto semplici, ma sono quelle che devono essere fatte. Poi da lì in poi si può fare tante altre, si potrebbero fare tante altre cose, ma almeno avere questo impianto concreto che possa attirare la gente e possa rendere tutti soddisfatti. Quindi il sistema museale nazionale non dovrebbe essere solo una lista di requisiti, ma anche un po' uno strumento per condividere conoscenze, soprattutto saper interagire l'uno con l'altro e anche condividere i modelli che riescono, sì, naturalmente riflettendo su perché funzionano in un posto e non in un altro. Ma io, uno che lo vuole in un museo, non gli farei fare un corso di guida turistica, gli farei fare un corso con qualche nozione, ovviamente, perché sennò non può andare a lavorare lì, ma anche come psicologo. Come riconosci il tuo pubblico? Come ti comporti con il pubblico A? Come ti comporti con il pubblico B? Perché non puoi essere monocratico e... va bene, monocratico, vabbè. Non puoi essere un pezzo monolitico. Di roccia... monolitico. Non puoi essere un pezzo di roccia che si comporta allo stesso modo con tutti. In base al pubblico ti devi comportare in maniera diversa. Se come ti comporteresti con un professore universitario a parlare con i bambini, questi ti tirano la frutta secca. Perché ovviamente se no io non capisco niente e così via. Bisogna adeguarsi al pubblico che hai. Quindi, piuttosto che... cioè, oltre ad avere nozioni di storia romana, questo e quest'altro, un bel corso da un psicologo che ti spiego come parlare con il pubblico. O psicologia o sociologia quasi. Però secondo me dovrebbe essere l'unico più importante, ma alla pari con sapere la storia romana se lavoro in un museo di dove c'è l'archeologia romana. Per me dovrebbe essere altrettanto importante. Anche perché se fai una visita guidata e il pubblico si annoia, l'hai perso. Non ti vengono più e ti danno... Non mi piace molto l'inglese, ma ti lascio un feedback negativo e questo vuol dire che l'altra gente non verrà più, il famoso passaparola di prima, quindi pensiamoci un attimo. Però nel caso del feedback c'è sempre il problema di le persone sono disposte a darti un feedback solo quando è stato molto positivo o molto negativo, se cadono in quel mezzo dove sì, ho seguito, quindi sono dimenticato il 90, si capisce quando non so, okay. Bello, interessante, bisogna saperlo leggere, quindi sì, leggere tra le righe, esatto. Quando invece capisci che sono gli è piaciuto, vabbè, se non gli è piaciuto, non abbiamo capito niente, è stato noioso, soldi buttati via, quello si capisce facilmente. Quando incomincio a scrivere più di una riga in cui dicono è stato interessante, grazie alla guida, è stato positivo. Quando iniziano a venire fuori i dettagli vuol dire che c'è, esatto, stata l'attenzione. Esatto. Io non sopporto quelli che vanno in un museo e dicono, ah, bello? Cosa vuol dire bello? Ma hai capito quello che hai visto oppure no? Bello non vuol dire niente. È stato interessante, ho capito quello che ho visto, questo vuol dire qualche cosa, è bello, anche quella porta lì è bella, che cosa vuol dire, non ha mica senso. C'è uno che dice bello, vuol dire mi sono rotto le balle, è stata una cosa mostruosa. Bene. Già fatto? Sì, direi che abbiamo concluso con questa intervista e ti ringrazio per... Grazie a voi, signore e signori, buonasera. Pazzi!